senti solo e giri fra tanta gente, con il cuore in tasca forte nelle mani. Un passo dopo l'altro scendi marciapiedi, senza più guardare e senza più ascoltare. Quando ti senti solo, solo fra tanta gente, fissi l'infinito, pensi al tuo domani. Viaggiano i pensieri dentro, senti male, bruci nella gola, provi a respirare. Respirare è vivo perché come una pianta al sole, in celle vuote, dentro una prigione, apriti a un nuovo cielo come un airone. Trova nuovo nido, poggiaci il tuo cuore. Quando ti senti solo, solo con la tua mente, non calpestare vie, fermati a un piazzale. Mettiti a sedere, vedrai il tuo presente, e giocare, gioire il tuo domani. Come una pianta al sole, in celle vuote, dentro la prigione, apriti a un nuovo cielo, come un airone. Trova nuovo nido, poggiaci il tuo cuore. Come una pianta al sole, in celle vuote, dentro una prigione, apriti a un nuovo cielo come un aerone. Trova nuovo nido, poggiaci il tuo cuore. Quando ti senti solo, solo fra tanta gente, per non sentirti solo a volte basta niente, non sentirsi solo, a volte basta niente.